nella giornata delle donne, giornata internazionale. E la biblioteca ha accolto questa sua proposta di presentare un libro di Stefano Ciccone che stasera non è arrivato a destinazione, purtroppo. Colpa dell'aereo, nel senso che all'1:15 doveva essere qua, invece mi ha telefonato all'1:15 dicendo sono ancora a Roma. C'è stato un guasto, hanno detto che faranno partire un aereo da Bolzano, dopo 10 minuti mi ha telefonato, insomma mi ha fatto una serie di telefonate, morale, riusciva ad essere qua per le 9 di sera, a questo punto ho detto no, guarda, risalta, perché non ha senso. È la seconda volta che sento, la interrompo, questa faccenda, un'altra volta un relatore doveva venire da Roma con l'aereo, non è potuto venire perché era bloccata la strada di accesso a Fiumicino, quindi insomma devo dire che non c'è la minima garanzia di arrivare. No dai, non la minima, perché mi sono andata diverse volte o sono stata particolarmente fortunata. Sì, però non la certezza. Diciamo che dello specifico non abbiamo avuto fortuna. No, comunque insomma la serata viene portata avanti lo stesso, anche perché il tema è molto interessante, coniugato poi sul territorio, con le attività di questa associazione. Vale la pena ascoltare e capire perché si è istituita una giornata di questo genere, che cosa viene fatto e offerto sul territorio. La dottoressa ha un'esperienza pluriennale, una competenza in questo settore che può essere di stimolo e di spunto anche per una riflessione e può essere portato poi da noi avanti anche all'esterno. La biblioteca accompagna sempre queste iniziative con una piccola bibliografia. Abbiamo trovato così dei suggerimenti anche oltre al libro che si propone questa sera. Ecco. Sì, per quanto riguarda il libro, siccome siamo rimasti d'accordo che comunque questo libro verrà presentato, adesso dobbiamo definire una data, però ho parlato con l'autore, ha detto che è disposto, Perché ormai bisogna ben pubblicizzarlo in maniera che non venga sottintesa, diciamo, perché a volte noto questa carenza nel giornale che lo mette 3 giorni prima ma il giorno stesso non lo mette più. Allora sì, io non ho beccato il giornale perché lo guardo solo al bar, non è che non voglio comprare l'Alto Adige, per guardare gli eventi culturali. Allora guardi, ci sono due vie, una la caldeggiamo vivamente proprio per questo motivo, perché i giornali noi li contattiamo, l'ufficio stampa della provincia li contatta, quindi l'informazione loro ce l'hanno, però poi la redazione sceglie e quindi a volte si trovano per motivi di spazio, noi ne abbiamo dato un comunicato stampa bello corposo, poi nel calendario non lo mettiamo più, o viceversa ci mettono solo nel calendario, anche quello a volte non viene visto. E poi, ecco, la cosa che noi così suggeriamo è quella di iscriversi alla biblioteca per un semplice motivo, che noi in questo modo mandiamo o via mail, a seconda della preferenza che ci ha accordato, o via mail, o semplicemente anche con la posta tradizionale, con queste cartoline che da anni che così facciamo in casa, e l'informazione arriva, ecco. Quindi, questo lo chiediamo, se c'è questa difficoltà magari di trovare sul giornale, perché mi rendo conto, ecco, che anche sollecitando non sempre viene comunicato come ci piacerebbe. Bene, adesso parto con uno scritto di una donna anonima di Zagabria che è stata ospitata nella casa delle donne di Zagabria. Oggi ho ricevuto fiori. Non era il mio compleanno e nessun altro giorno speciale. La scorsa notte abbiamo avuto la nostra prima lite e mi ha detto tante cose crudeli che mi hanno ferita. Io so che gli dispiace e che non pensava a tutte le cose che mi ha detto, perché oggi mi ha mandato fiori. Oggi ho ricevuto fiori. Non era il nostro anniversario e nessun altro giorno speciale. La scorsa notte mi ha sbattuta contro il muro e ha cercato di strangolarmi. Mi sembrava un incubo, non riuscivo a credere che succedeva realmente. Mi sono svegliata stamattina nel dolore, piena di lividi. So che gli dispiace perché oggi mi ha mandato fiori. La scorsa notte mi ha picchiata, ed è stato peggio delle altre volte. Ma se lo lascio, poi cosa faccio? Come farò ad occuparmi dei bambini? Di che cosa vivrò? Ho paura di lui e ho paura di lasciarlo. Però so che sicuramente gli dispiace perché oggi mi ha mandato fiori. Oggi ho ricevuto fiori. Oggi era un giorno speciale. Era il giorno del mio funerale. La scorsa notte mi ha finalmente ammazzata. Mi ha picchiata fino alla morte. Solo se avessi avuto abbastanza forza e coraggio di lasciarlo, oggi non avrei ricevuto fiori. Inizio con questo scritto raccapricciante per introdurre il tema della violenza domestica. Perché quando si parla di violenza bisogna intenderci. Io sono presidente dell'associazione GEA dal 1999. Dal 2000 abbiamo vinto la gara d'appalto dell'azienda dei servizi sociali di Bolzano e gestiamo due strutture. Il centro di ascolto antiviolenza, che si trova in via del Ronco, e la casa delle donne ad indirizzo segreto. Perché sottolineo violenza domestica? Perché se noi ci occupiamo di prostituzione, che anche quella è violenza o può essere vista come violenza, adesso non voglio aprire un dibattito se uno sceglie o non sceglie di prostituirsi, si crea un po' di confusione. Le case delle donne sono nate grazie ad un lavoro molto tenace e forte negli anni 80, proprio perché negli anni 70 sono state raccolte le testimonianze nei luoghi delle donne dove si faceva autocoscienza. Da lì è emerso tutto un mondo sommerso dove le donne avevano grossissime difficoltà a raccontarsi per vergogna, per paura di giudizio, per livello di autostima bassissimo, perché incredule loro stesse di trovarsi in una situazione del genere. Ed ecco quindi che la raccolta di questi racconti ha fatto sì che ci fosse un'azione politica da parte di donne che hanno deciso di far emergere questo mondo sotterraneo. Ecco quindi che alla fine degli anni 70, primi anni 80, in Europa e in America si sono costituite queste case delle donne. Da noi, a Bolzano, le cose sono andate nel seguente modo e io lo posso raccontare perché sono una delle donne che ha partecipato, un po' casualmente, un po' no, attivamente a tutto un percorso. Io mi sono laureata nell'anno accademico 82-81-82, sono rientrata a gennaio dell'83 a vivere a Bolzano, sono stata coinvolta subito da questo gruppo di donne che faceva un'azione politica perché le donne, le poche donne presenti in consiglio provinciale, portassero avanti un disegno di legge per l'istituzione della Casa delle Donne. Non vi sto a raccontare tutte le tappe, poi se mi fate delle domande più che volentieri rispondo. Ha fatto sì che nel 1989, quindi parlo 6 anni di battaglia politica, si arrivasse con la legge 10 provinciale alla istituzione delle case delle donne. E noi siamo stati non felici, molto di più, perché dimostravamo di essere la prima provincia che aveva il coraggio di finanziare iniziative di questo genere. solo per darvi l'idea in quale situazione le altre mie colleghe si trovano, il Lazio, Sardegna e Toscana negli ultimi anni sono riusciti ad avere una legge analoga. Perché il problema di questi centri è che se tu non hai finanziamenti, già viene fatto tantissimo volontariato, ma se si basa solo ed esclusivamente sul volontariato, inevitabilmente si va a sgretolare o comunque a sfilacciare un luogo di primaria importanza, perché tu in quanto donna non ti puoi impegnare all'infinito. Ecco quindi che diventa importante che ci sia proprio un'istituzione pubblica che finanzi questi luoghi, e noi a Bolzano oggettivamente siamo fortunate, perché c'è stato l'anno scorso a settembre, dopo 10 anni di lavoro, ripeto 10 anni, finalmente la costituzione dell'associazione Donne in Rete contro la Violenza. In questa associazione fanno parte 46 associazioni di donne, ripeto, sparse su tutto il territorio italiano, ma per poter far parte di questa associazione dovevi avere determinate caratteristiche. E perché è importante l'aver costituito questa associazione? Perché dai una visibilità maggiore e riesci anche a coordinarti meglio, perché il lavoro di rete, in rete, è fondamentale, e quindi ad avere anche più peso, più forza politica. Quando uso il termine politica non è tanto legato ad un discorso partitico, ma proprio a un riuscire ad esserci per riuscire ad ottenere dei finanziamenti. Guardate che nel 2008 il governo Prodi aveva dato 14 milioni, che poi erano spariti nella finanziaria di Berlusconi, che poi grazie alle pressioni fortissime che sono state fatte da parte delle donne è stato in qualche modo costretto a ridare questi soldi per i centri di ascolto e per le linee telefoniche attive 24 ore su 24. Però quello che io dico sempre, quello che siamo riusciti ad ottenere, non è assolutamente scontato che possa rimanere nel tempo se non sei molto molto vigile. Allora, ritornando alla nostra storia, nel 1988 si costituisce la prima associazione, dove io sono una delle socie fondatrici, e ho ritrovato ieri un po' tra le mie carte, e quindi poi ci si commuove anche ogni tanto, la cifra che avevo dato per costituire questa associazione, che è Donne contro la Violenza, Frauen gegen Gewalt. Fate conto che era il 10% del mio stipendio, e come me tante altre donne, per riuscire a pagare il notaio. Ed è stato comunque un momento molto forte di gruppo e di identificazione rispetto ad un progetto. Doveva sempre partire questa casa delle donne. Un anno dopo appunto abbiamo avuto la legge, dopo abbiamo dovuto attendere il 1995 per riuscire ad avere a Merano un appartamento dove potevano essere ospitate massimo 3 donne, non di più. Nel 1997, siccome appunto Bolzano doveva partire, mi hanno contattato chiedendo se ero disposta, assieme a Rolando Schugel, che era allora presidente dell'associazione di Merano, di far partire il gruppo a Bolzano. Allora io e lei, ma sempre in modo molto artigianale, con telefonate, con volantini, si è riuscita a far partire il gruppo, e io avevo detto: guardate, io non ci sono più rispetto a questo tema. Mai dire mai, perché in realtà che cosa è successo? Che nel 97, siccome partiva la struttura finalmente molto grande, con 12 posti più i posti per i bambini a Merano, c'era un gran bisogno di, vengono chiamate Nachtdienstfrauen, cioè le donne disposte a fare la copertura di 12 ore, di solito dalle 7 di sera alle 7 di mattina. anche perché noi, quando dico noi, intendo più o meno sia Bolzano che Merano di certo e anche Bressanone, poi ci sono anche, vi spiegherò più avanti, cosa il territorio offre, altre associazioni che si muovono in maniera un po' diversa. In ogni modo, noi garantiamo una reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Ecco quindi che il lavoro delle volontarie notturne è di fondamentale importanza. Viene dato un gettone di presenza, ma è veramente un gettone assolutamente simbolico. Allora vi dicevo che sono andata a Merano, ho fatto la formazione, ho fatto il mio volontariato a Merano, Bolzano mi richiama all'ordine dicendo no, guarda, devi venire perché insomma c'è bisogno di te. Allora un po' lusingata, un po' anche impaurita come è normale che sia, inizio ad andare alle riunioni sempre con l'idea, vabbè, però adesso me ne vado, cioè ci sarà qualcun altro che mi sostituirà. No, non è andata così. Tanto è vero che poi nel 1996-9 mi hanno proprio chiesto di essere presidente, perché se no non si poteva andare avanti con il progetto, sapevamo che sarebbe uscita la gara d'appalto, insomma ve la faccio breve. Accetto pensando, vabbè, tanto avvio il progetto, dopodiché ci sarà un'altra donna che mi sostituirà, ma insomma mi rendo conto che non è così semplice perché sei comunque rappresentante legale, questo significa, cosa che mi è già successa, che se ci sono denunce e quant'altro rispondi tu in quanto persona. In più per essere presidente non puoi lavorare in associazione e quindi c'è anche, come posso dire, anche tutto un aspetto di tipo burocratico, amministrativo, non semplicissimo da superare. In ogni modo io sono contenta, sono molto contenta di tutto il lavoro che è stato fatto e quello che non vi ho detto, in questi 2 anni, dal 97 al 99, si è lavorato per il progetto GEA, ossia per riuscire a vincere la gara d'appalto in modo da poter gestire queste due strutture. Io ho dato tanto a GEA, sono straconvinta, sono passato ore e ore al telefono, mio figlio che era molto piccolo aveva attacchi di gelosia terribile perché non stavo con lui, ma ero sempre al telefono, ma ho anche ricevuto tantissimo. Mi sono chiesta spesso per quale motivo ho avuto un impegno così importante e così forte. Una risposta precisa non ve la so dare. Penso che ognuno di noi che si ritiene fortunato, rispetto, e io mi ritengo tale, possiamo dire, comunque ho avuto una famiglia che mi ha mantenuto agli studi universitari, comunque sono stata agevolata nel mio percorso di crescita, comunque ho sempre fatto i lavori per passione e ho avuto la fortuna di fare i lavori che mi sono scelta. Penso, ecco, che donne fortunate come la sottoscritta abbiano il dovere morale, etico, di impegnarsi su qualsiasi campo, è lo stesso quale, ma che ci sia un impegno sociale reale. A me è successo di, non posso neanche dire fine, perché in realtà mi sono sempre occupata di donne. È un tema a me caro, sarà stata mia nonna definita la bersagliera, il generale, che mi ha sempre detto che io devo farmi una posizione, che se c'era un uomo andava bene, se non c'era andava bene lo stesso, mentre era fondamentale avere una posizione, lei diceva la posizione e l'autonomia economica. Quando entri in relazione con la violenza domestica, che significa la violenza che viene perpetrata in famiglia, cioè da persone che per definizione tu ami, che possono essere il padre, il marito, l'amante, il figlio, il fratello, ma persone di cui ti fidi. E questo è uno dei motivi Per cui la violenza domestica risulta essere particolarmente odiosa e difficile da accettare culturalmente. Perché, se riflettiamo assieme, è oggettivamente paradossale pensare che la persona con cui c'è un legame affettivo potente è in qualche modo il tuo carnefice. Allora, perché sottolineo questo aspetto? Perché, grazie. Perché sottolineo questo aspetto? Perché spesso, per dare una giustificazione rispetto alla paura che provi, dici: ma non è vero, non è possibile, oppure, vabbè, ma se l'è andata a cercare. Ci deve essere in qualche modo una rielaborazione malsana da un punto di vista culturale, ed è il meccanismo che si è innescato fino ad oggi, oserei dire, anche se poi non è vero, perché vi ho detto che dagli anni Ottanta che si è aperto un dibattito, e quindi poi Stefano Ciccone, che proprio grazie all'impegno che tutti e due abbiamo rispetto a questo tema ci siamo conosciuti, ed è stata una casualità, ripeto, e lui è stato uno dei primi uomini che ha avuto il coraggio di andare fino in fondo nella riflessione e di chiedersi: ma perché ci deve essere questa cultura maschilista? Cos'è che vai a toccare? Allora, è chiaro che possono essere portati avanti livelli di discussione diversi, perché puoi dare anche un taglio psicoanalitico, cosa che viene anche fatta, che però infastidisce abbastanza le operatrici nel momento in cui ti arriva la donna incinta, e a noi è successo di notte, portata dalla polizia, la polizia che va a prendere anche il bambino di 2 anni e mezzo, la lascia lì piena di lividi, con il rischio, ripeto, che era il 7º-8º mese, ma perché, appunto, io lo so che vi rovino la serata, quindi sto cercando anche di rendere meno sgradevole quello che dico, ma è oggettivamente di per sé sgradevole. Allora, quello che a me scatta, per fortuna, è che mi indigno, mi carico così tanto che dico: io devo fare qualcosa. Mentre magari rispetto ad altri massacri, non so, penso a quello che sta succedendo nelle carceri, sono meno grintosa. Per fortuna ci sono altre persone molto più grintose, perché sempre di violenza, insomma, si tratta. Quindi, ripeto, ognuno può prendersi il suo... Esatto, e lavorare in merito a questo. Allora, vi dicevo che se poi tu come operatrice lavori in questo settore, fai fatica a comprendere le disquisizioni culturali giuste, corrette, per carità, che vengono portate avanti, perché poi dopo tu alla fin fine non è che di fronte all'occhio blu, alla mascella o alla clavicola rotta o alla sordità perenne vai ad analizzare quello che è successo quando avevi 2 anni e perché c'è questo copione di vita che ti porti avanti. Oppure quando durante un processo vedi una trentenne che ha perso totalmente i denti, che porta la sua dentiera davanti al giudice dicendo: così mi ha ridotto, ripeto, fai fatica. Che poi sia un tema estremamente complesso, con tanti non detti, con tante ambivalenze, con anche la letteratura, per dire, si è occupata tantissimo di vittima, carnefice, dove è il confine, che dipendenza si crea, ma diciamo che lascio ad altri questo aspetto che va assolutamente indagato. Io invece intervengo con progetti concreti, nel senso di: ok, qua bisogna gestire un centro, dobbiamo gestire una casa, c'è un ho bisogno di operatrici qualificate che permettano a queste donne di seguire un percorso di uscita dalla violenza. E quindi significa anche avere delle persone competenti in termini di legge, tanto è vero che noi abbiamo l'avvocata che dà le consulenze, abbiamo bisogno di lavorare tantissimo con il territorio, quindi lavorare con l'assistente sociale per riuscire ad avere il minimo di sostentamento, per riuscire a sostenere la donna nella ricerca del lavoro, perché un aspetto, io sto andando poi, se mi volete bloccare e farmi delle domande, perché poi io ho anche portato dati, numeri, però ultimamente inizio ad essere anche allergica ai dati e ai numeri e vorrei entrare più sul vivo del lavoro e proprio della concretezza, ma veramente se voi mi fate delle domande interrompetemi pure, non è, come posso dire, una lezione cattedratica. E mi rendo conto che sto appunto girando un po' rispetto alle cose che vi sto raccontando. E quindi vi dicevo, abbiamo bisogno dell'assistente sociale, abbiamo bisogno di sostenere la donna nel muoversi all'interno della burocrazia, e insegnare come si fa a cercare un lavoro, fare un minimo di analisi di bilancio, di competenza, potremmo usare questo termine molto moderno, perché tutte dicono ma non so far niente, no, non è possibile, sei arrivato fino a questa età e non sai far niente. Allora farle scoprire che in realtà è una bravissima cuoca, allora potrebbe anche pensare di andare a lavorare in un ristorante piuttosto che organizzare catering o quant'altro. Ognuno di noi, su questo io sono profondamente convinta, ha delle risorse, si tratta di riconoscerle e di attivarle. Adesso vi parlo un attimo della violenza, cioè che cosa si intende, che cosa, perché è così massacrante per un individuo. Volete questa? Allora, si insinua lentamente, così come ho iniziato con la lettura, che dice, ma mi ha insultata, mi ha umiliata. Inizia così. Allora, tu ti innamori di un uomo, ti sposi, no, non ti sposi, questo è differente, ma insomma hai questa relazione affettiva molto forte. All'improvviso la persona che tu ami si trasforma in un orco. Fai molta fatica a renderti conto che non è l'uomo che hai amato e la persona con cui hai deciso di dividere la vita. Quindi cerchi 2000 giustificazioni e c'è sempre anche l'idea che comunque sei tu inadeguata, che tu lo hai innervosito, infastidito. In fondo, quando io uso l'espressione te lo meriti, intendo proprio questo meccanismo che dici, ma no, ma se ha reagito così è perché effettivamente io, che ne so, non ho preparato, non ho pulito la casa come avrei dovuto fare, ho freddo di mettere la giacca, non ho preparato il cibo, non sono stata sufficientemente attenta con i bambini. Poi però quando inizia ad aumentare sempre di più, inizi a nascondere perché ti vergogni da morire. Come fai a dire anche alle tue amiche, ma l'uomo che amo mi massacra? Quindi c'è il timore di non essere creduta e di essere giudicata. È fondamentale, guardate che si fa una fatica enorme riuscire ad ascoltare senza giudicare. E guardate che anch'io come presidente, che ripeto, ho avuto una serie di interventi, diciamo così, non voglio raccontare di me, insomma non mi va, giudiziari, E quindi tu ti impegni in prima persona, vorresti essere anche in qualche modo gratificata e scoprire invece che tutto quello che hai fatto poi apparentemente svanisce perché questa persona ritorna a vivere con il maltrattatore, è dura da digerire ed è ancora più dura non giudicare. Ma ci deve essere assolutamente una sospensione perenne di giudizio. Queste donne quando arrivano hanno un livello di autostima bassissimo e quindi una convinzione che loro non sapranno fare niente e non possono imparare, non sanno fare niente. E un problema col proprio corpo enorme, nel senso che è un corpo talmente deprivato di amore che devono ricostruire una propria fisicità e un proprio contatto perché per riuscire a sopravvivere si estraneano totalmente dal corpo. Quindi c'è un lavoro di ricostruzione molto forte. Quello che negli ultimi anni è stato fatto da parte del comune che ci ha finanziato dei progetti e che a me come progetti sono piaciuti molto è la rielaborazione della violenza attraverso la creatività, per cui un anno è stato fatto un corso di pittura con ovviamente dei momenti di intensità emotiva elevatissime, perché è abbastanza usuale che le lacrime diventino il mezzo per trasmettere la propria disperazione. Un altro anno è stato fatto invece un lavoro di fotografia e quest'anno invece di scrittura creativa. E domani alla Libera Università di Bolzano abbiamo dato gli spazi, quando dico abbiamo nel senso che io sono vicepresidente della Libera Università di Bolzano, allora mi sono attivata per riuscire a trovare gli spazi in modo che ci sia la possibilità che queste 13 storie che sono state scritte da donne presenti o che erano presenti nella nostra casa e nei cosiddetti alloggi protetti, le scienze bombe, che si trovano sempre qui a Bolzano, ma il progetto è leggermente diverso, nel senso che loro non hanno una casa, non sono reperibili 24 ore su 24, e noi invece sì, hanno meno personale, ma poi insomma se mai parlerete con la Presidente, questo per dire che ci sono poi delle differenze nella gestione dei progetti. E vi dicevo che queste storie sono state poi trasformate in pezzi recitativi e 13 ragazze delle scuole superiori, straniere e anche italiane e tedesche, reciteranno queste storie. Alcune sono delle favole, altre no. E ritengo, siccome mi ha mandato ovviamente queste storie, una lettura interessante. Fatemi voi delle domande perché sennò io posso andare avanti. Io vorrei sapere, lei non ha mai dati, ma io no, glieli do subito. Non conosco assolutamente i dati di questo problema terribile. Volevo sapere se c'è una differenza quantitativa, diciamo, nei casi di violenza. Domestica, io sto parlando di domestica, sia chiaro. Nei ceti più deprivati, diciamo, no. Rispetto a quelli più benestanti, o se no. È la stessa cosa? È trasversale. È molto democratica. La violenza è molto democratica. Ho sentito varie volte dire, ma guarda che a casa si menano, persone che si vedono in giro, abbracciare. Non lo so perché io non ci sono, come si fa a sapere se due si menano? Peraltro mi risulta un po' difficile, cioè se non li vede materialmente che si stanno picchiando, può darsi. E allora mi è sorto questo dubbio. No, è vero, è trasversale, colpisce ogni classe sociale, ma con la stessa valenza, sì, e anche l'età. Cioè ci sono ragazze minorenni che subiscono cose. Beh, forse è più facile che sia la ragazza minorenne che subisce perché non ha ancora una personalità abbastanza forte per reagire, ma la donna adulta a un certo momento reagisce alla violenza. No. Perché non è un caso che ci sia una tipologia di comportamento. Mi spiego meglio. La reazione, uno mi mette le mani addosso. No, e io reagisco, ti faccio vedere che la prossima volta non nemmeno sì, infatti lei non verrà per la testa una cosa del genere. Per questo chiedo del censo, perché se una donna ha in mano lo strumento dell'indipendenza, tanto più può. No, perché c'è una dipendenza affettiva. Appunto, per questo questo è quello che voglio dire. Ci può, siccome non è solo un problema di dipendenza economica, ma è un problema di dipendenza affettiva, tu come ti collochi nella relazione amorosa, chiamiamo così, o comunque affettiva, perché voglio dire, ci sono anche fratelli che menano, e tu non riesci a denunciare perché ti senti tu cattiva. L'errore, diciamo tra virgolette, è una questione di educazione e anche di maturità della persona, chiunque sia che eserciti una violenza contro di me va denunciato per il semplice fatto. Ma non tutti hanno il suo carattere, la forza. Sì, ecco, allora dico, è un fatto anche molto culturale, ma certo molto, quello è, cioè di considerare sempre la donna in un ruolo subalterno, per cui quella che si becca le botte è la donna, perché sarebbe inaudito che la donna alzasse le mani contro l'uomo. È un fatto anche, credo. Sì, peccato che non c'è Stefano Ciccone, perché lui è bravissimo, appunto, questo libro che vi faccio vedere, lui affronta proprio questo tema. Penso io, è da fuori. E quindi voi venite alla presentazione che ci sarà di questo tema, che è essere maschi tra potere e libertà. E c'è tutta una parte di riflessione su ma perché noi uomini siamo così violenti, ma perché accettiamo questo, ecco, questo modo, questo sentire il punto di vista maschile. Certo, quindi venite, e quello femminile si può intuire, si può, ma io non lo so se è a gennaio troveremo una data, perché adesso abbiamo ormai la chiusura dell'anno con tante date, tante iniziative. Non riusciamo proprio a trovare un momento. Ma una cosa che ha colpito, ma adesso non vorrei sconfinare nello stalking. Anche questa è violenza, perché ecco, scusami, hai fatto bene anche dal fuori. Allora, nella cosiddetta letteratura, non mi piace, ma insomma questo è il termine tecnico, noi abbiamo diverse forme. Allora c'è la violenza economica, la violenza fisica, la violenza sessuale, la violenza verbale, ma è psicologica, lo stalking, le molestie sessuali. Poi c'è anche tutto un altro tema difficilissimo. Prima di venire qua parlavo con questa dottoressa che è ginecologa e si chiama Lucrezia Cattagna, molto attiva a Firenze e si occupa di mutilazioni genitali femminili, detto MGF. Perché anche lì è tutto un mondo e noi poi abbiamo bisogno di avere delle informazioni rispetto a questo, perché se tu hai una bambina musulmana che va spesso in bagno, ci impiega tanto, forse devi iniziare a pensare che qualcosa c'è, che non è pigra, è annoiata, ma c'è dell'altro. Comunque non sconfiniamo, perché lì è un altro problema estremamente grosso. E c'è lo stalking. Quello che mi colpisce dello stalking, per fortuna ci sono stati dei passi avanti anche in termini legislativi, mi sembra di capire che tutto sommato qualcosa si sta cercando di fare concretamente, e è proprio la platealità del gesto finale. Cioè, se la violenza si insinua tra le pareti domestiche e poi però c'è anche una reazione da parte della donna che con una certa forza, autostima, l'aiuto dei parenti, non so, a un certo punto arriva a dire basta, chiudo, vado via, vado attorno dai miei genitori, vado in un'altra casa, mi ricreo un ambiente sano, voglio ricostruirmi. Quello che mi preoccupa è che comunque l'uomo, diciamo, riesce sempre a rimettersi sulle sue tracce e soprattutto quando il suo obiettivo è quello di eliminare, ma in maniera molto plateale, sempre in un pieno giorno, in una piazza, in una via, in un... cioè la ok, allora si ritorna al discorso che ti dicevo prima rispetto... essere una lezione, una dimostrazione sociale che vi fa, no, poi pagherà le conseguenze, vabbè, chi se ne importa, però sì. Cioè, quando vi parlavo della cosiddetta ruota della violenza, allora si diceva ti innamori, ti tratta male, non ci credi, poi lui ti chiede scusa, ti porta i fiori e si ritorna a quello che ho letto. Poi di nuovo c'è una sorta di diglio, di nuovo si ritorna nell'inferno, di nuovo c'è il recupero. Nel momento in cui tu decidi di andartene, questo maltrattatore metterà in atto delle strategie di seduzione terribili, terribili. Ed è lì che appunto tu, preda, vittima, continui a ricadere, ma perché alla base c'è il fatto A, che sei innamorata, B, che non riesci a renderti conto di esserti sbagliata in questo modo rispetto a una persona. Cioè ci deve essere anche l'accettazione, la consapevolezza, ho sbagliato, questo è un mostro. Allora, ritornando al discorso che tu fai, gli uomini che vengono lasciati, che hanno la struttura del maltrattatore, non possono accettare un'umiliazione del genere. E quindi ecco che si attiva lo stalking, che poi può sfociare in situazioni plateali e tragiche, drammatiche, perché donne, ci sono donne che vengono uccise. Io vi ricordo qualche anno fa che è stata uccisa una donna di 27 anni, 28, che era un'impiegata provinciale davanti a Palazzo Wittmann, dove c'è Durni per intenderci. Sì, alle 2:30 del pomeriggio. Sì, lì. E le hanno sparato. Perché non accetti di essere senza la tua preda? Cioè, questo meccanismo terribile dove appunto tu, maltrattatore, puoi essere vissuto anche come una sorta di cacciatore, perdi la tua identità, tu hai bisogno della vittima, se no non riesci a vivere tu. Questo è il problema. Ma questi uomini vengono poi sottoposti a terapie psicologiche? Allora, vengono messi a piede c'è poco, no? Purtroppo c'è poco. Perché andrebbero rieducati. Certo che andrebbero rieducati, io mi ricordo. Che si possa, però bisognerebbe quanto meno. Ma io da questo punto di vista sono molto positiva, altrimenti non mi impegnerei così tanto su questo settore. E io diversi anni fa ero andata a Trieste ad un convegno internazionale e c'erano diversi uomini, come al solito devo sempre citare questi paesi, Svezia, Norvegia, Finlandia, paesi nordici, il Canada, e alcuni erano degli Stati Uniti d'America, erano tutti uomini, compagni di donne che gestivano case delle donne e che hanno avuto la motivazione, la volontà, lo stimolo di creare dei luoghi per uomini, soli uomini, per analizzare con loro, per creare con loro dei percorsi di uscita dalla violenza. Rispetto a questo c'è un film molto bello, spagnolo, perché anche in Spagna stanno tentando cose analoghe, che è Ti do i miei occhi. È un film che avrà 5-6 anni, non di più, e secondo me è fatto molto bene perché ti spiega in maniera semplice il meccanismo che c'è alla base di questo rapporto malsano, io uso questo termine, e anche la fatica che fa quest'uomo che tenta di uscire. Dica. No, io penso, un uomo che esercita una violenza nelle varie forme che lei ha elencato, è in definitiva un insicuro di sé. Perché se uno è sicuro della propria struttura psicologica e della propria esistenza di persona, compiuta in se stessa, non ha nessun bisogno di esercitare una violenza, di stabilire rapporti morbosi, diciamo, di potere, sono i cosiddetti rapporti di potere. Non ne ha nessun bisogno perché già ha il suo tranquillo potere nel suo equilibrio di persona. Certo. Quindi voglio dire, questi sciagurati vanno aiutati pure questi, diciamo, come tanti altri. Sì, io vorrei che si muovessero gli uomini, perché adesso che siamo di nuovo le donne che creino dei centri per gli uomini, cioè, francamente mi sembra un po' eccessivo, ripeto, ne parleremo con Stefano Ciccone, visto che lui ha fondato questa associazione plurale maschile e anche lui è convinto che bisogna fare qualcosa, assolutamente. Certo, ma ritorno al discorso, è un fatto culturale radicatissimo nella mentalità italiana. Anzi, io ho letto del tempo fa una testimonianza, non so se era un romanzo, non mi ricordo, in cui addirittura diceva, non so se ha torto o ragione, che certe donne in un certo qual senso si compiacevano del fatto di essere battute. Ma certo, dal maschio, che c'è perché questo dimostrava un interesse. Ecco, cioè si arriva a questa distorsione spaventosa, e torno a dire, culturale, è un fatto di un paese arretrato, io dico, e semiselvaggio come ancora è l'Italia. Sì, ma non è solo l'Italia, senso, il problema, no? Adesso, no, adesso vado con i dati. Io mi devo salutare, ma certo, ma per carità. Perché c'è mio figlio che... No, grazie. Grazie a voi di uscire una persona. La prossima volta, perché vogliamo presentare questo libro. Allora, nei paesi industrializzati il 20-30% delle donne ha subito violenze fisico sessuali da un partner o da un ex partner nel corso della propria vita. In Europa e nel mondo la violenza nelle relazioni intime è la principale causa di morte e di invalidità per le donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni, Consiglio d'Europa. In Europa una donna su 5 vive con un partner violento e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 40% al 70% delle donne vittime di omicidio sono state uccise dai propri partner. Sono dati vertiginosi che fanno venire le vertigini. Ho 3 figlie, appunto. Allora è un problema mondiale. Se noi continuiamo a pensare che non è un problema collettivo ma è un problema individuale, perché io donna non sono sufficientemente forte, sono psichicamente debole, sono malata, che cavolo ne so cosa mi è successo nella mia vita, rimane un mio problema. Se invece si inizia a ragionare in termini di dati mondiali, si capisce che è un problema fortemente culturale e quindi devono essere fatti determinati interventi. Io faccio sempre questo esempio rispetto alla scuola, siccome sono insegnante, o ero insegnante visto che da qualche anno non insegno più nella scuola superiore. Una volta si era convinti che il ceffone, la famosa bacchetta che aveva il maestro che ti dava sulle mani, inglese, quindi che le pene corporali fossero funzionali rispetto all'apprendimento. E c'era una reale convinzione. Il dislessico, ma che dislessico? Sei tu che sei pigro, bon, botta a non finire. Poi la scienza, la trasformazione della nostra società ha fatto sì che se tu oggi sfiori solo per sbaglio uno studente ti arriva la denuncia. Perché? Perché si parte dal presupposto che tu, insegnante, non puoi permetterti. Ed è giusto che sia così. Allora io spero, prima o poi, ed è un fattore culturale, Non ho capito io perché 50 anni fa potevano menare alla grande e adesso... Perché 50 anni fa probabilmente il bambino non aveva lo status che ha oggi nella società. Ci sono stati, lei sa meglio di me, dei secoli in cui nemmeno venivano battezzati finché non avevano raggiunto una certa età, perché il rischio di morte era talmente alto che manco esistevano di nome. Quindi vede che è tutto un processo culturale. Siamo andati avanti. In questo settore della donna, secondo me, il discorso si inceppa molto di più perché si ha a che fare con degli adulti, ritorno al discorso di prima, cioè uno presuppone erroneamente che l'adulto sia cresciuto abbastanza per sapersi difendere da sé. Ecco. Questo, forse questo è uno dei motivi. Non è solo quello. Allora adesso senta, gliene racconto un altro. Ieri che ero in macchina, tornavo da Bologna. Il mio collega mi dice, napoletano, e mi dice, ma mi deve sempre stuzzicare perché sa come la pensa. Cosa dici, Gabriella, se sai che la nonna di mia moglie, che ha tirato su 3 figlie da sola, il marito è andato in America, è emigrato, mandava i soldi per 8 anni, poi non ha mandato più niente. E si è fatto una famiglia lì in America e poi è tornato quando era vecchissimo, scassato, malato, per una donna che lo cura. Sì, perché la devo è un fattore. No, aspetta che non ho finito, perché lo dico con fattore culturale, e che dice a mia moglie: ma non provi piacere nello stirare le camicie di tuo marito? Dove senti l'odore di tuo marito. Ma vale dire una che ti dice una frase così, che riferimenti culturali ha, che immagini e rappresentazioni sociali ha. Però dobbiamo fare i conti con questa realtà, non si può liquidare usando il termine arretratezza, ritornando al discorso della violenza, è molto più complesso e si sa anche molto poco rispetto a quelle che sono le spese sanitarie, perché le famose donne depresse, quante di loro in realtà sono depresse perché stanno subendo una violenza che non sono neanche in grado di riconoscere? In uno dei miei corsi rispetto a questo tema mi ricordo che la formatrice mi aveva detto: per riconoscere un qualche cosa lo devi saper definire e nominare. Quindi non aver paura di usare il termine violenza. Se una donna viene da te e ti dice: mio marito mi ha picchiato, tu di ti ha usato violenza? Ma no, ma era ubriaco. Ma è stato violento, ha usato violenza. Ma sapete quante resistenze ci sono? Tantissime. La paura del nome, perché ricordatevi che il nome ha una forza evocativa potente e il nome, avendo questa forza evocativa, crea delle immagini mentali e delle rappresentazioni di noi molto forti. Ed è un dato di fatto. Rispetto al consultorio per maschi che c'è qua. Ma no, ad esempio, per carità, è che questo Manaveratum, che è il consultorio maschile, è gestito dalla Caritas. Allora, dobbiamo ancora riuscire a capirci, ad avere un linguaggio comune. Perché se io mi confronto con il presidente mi dice: ma tu non sai come le donne abbiano il potere di massacrare gli uomini e arrivano da noi uomini che non hanno perso tutto, hanno perso la casa perché la legge è a vostro favore, i figli, sono costretti a dare un sacco di soldi, non sono poi in grado di rifarsi una loro vita, e magari devono vivere, ritornare a vivere con i genitori anziani oppure in situazioni di alloggio precarie. Anche voi siete cattive, non si va da nessuna parte. E allora se iniziamo a discutere in termini di percentuali, ma da noi arrivano tot uomini e quindi per me la rappresentazione che ho io delle donne è che le donne sono tutte pessime, cattive, iene, massacrano, umiliano. Hanno questi uomini, hanno anche loro i piani strategici per rubare la casa. Esatto, ma per carità, io mica posso negare che c'è anche questo. E che qui stiamo parlando di violenza domestica, che è altro ancora. Allora non è che io dico questi uomini non vanno aiutati, non vanno sostenuti, ma per carità. Ma al momento però, non si riesce, esempio, manca. Non fa niente rispetto a questa roba che non sa se fanno qualcosa. Ma guarda, cioè, io so una persona che lavorava, che poi ha smesso, aveva fatto anche una formazione ad hoc perché aveva una visione come la nostra, poi non si ritrovava più nella visione. Adesso, sinceramente, da un paio d'anni, tre, che non ci sentiamo più e non sono in grado di dare un giudizio, diciamo che abbiamo tentato. Dei timidi rapporti, ma al momento non abbiamo ancora un linguaggio comune. Inoltre noi dichiariamo apertamente che siamo dalla parte delle donne, perché non possiamo fare diversamente, e noi crediamo ai racconti, anche perché un'accusa che ci viene mossa è accredita tutto, sì, perché io sono convinta che se poi una donna racconta bugie verrà fuori la verità, ma io non sono il giudice, io sono il luogo dell'accoglienza per definizione, è il luogo dove tu vieni, parli, racconti, rappresenti la tua realtà, il tuo mondo, punto. Io non sono il giudice che deve decidere se è vero o non è vero, che deve dare sanzioni. Poi è chiaro che nella violenza domestica a volte c'è anche una dipendenza da alcol, dipendenza psicofarmaci, una dipendenza da droghe. Allora vediamo qual è il problema prioritario. È un problema di consumo di, oppure è innanzitutto il problema della violenza che va preso in considerazione? Viene da sé. È chiaro che ci sono tantissime situazioni molto complicate dove fai fatica a definire bene i confini, ma questa è violenza psicologica o è altro? Perché è difficile che uno subisca solo la violenza psicologica, di solito c'è anche violenza economica, sessuale. Allora una donna può dire non ho voglia di avere rapporti sessuali? Può permettersi questa, ma guardate che ci sono donne che accettano rapporti di gruppo per compiacere all'uomo che amano, accettano di essere legate, accettano tutta una serie di cose. Perché amano degli uomini così? La signora non riesce a rassegnarsi, no. Stanotte non dormirà, lo sento. No, io dormo benissimo perché non ho mai avuto problemi di questo genere. No, e mi sento, per carità, no, è tutto tutelata rispetto a questo problema. Però osservo le mie sorelle, in senso vasto, e devo dire che certe volte rimango estremamente perplessa, obiettivamente, da una constatazione di un'eccessiva dipendenza. Io conosco, vedo delle persone che pur donne, dico, perché le esperienze maschili non le conosco abbastanza bene, da essermi fatto un quadro, però di donne disposte a umiliazioni poderose, pur che ci sia una voce maschile che quando fa comodo a lui si materializza nel telefono, le ho viste. E mi sono chiesta con vera, non dico angoscia perché non è che me ne importa a me, ma voglio dire, insomma, con grande dubbio sulla verità, mi chiedo come ciò sia possibile. Ma non stupide, anche indipendenti, eppure purché si materializzasse questa vaga presenza e che non ci fosse la conclamata dichiarazione di solitudine e di insuccesso sentimentale, erano disposte a umiliazioni veramente sanguinarie. Vede che si è appena data la risposta? Perché non sanno stare da soli. perché non riescono ad ammettere e a riconoscere pubblicamente di non essere riuscito a scegliere o di non aver trovato proprio nessuno. Boh, beh, io me lo sono chiesto, francamente, e non sto sempre dalla parte dalla parte delle donne, perché capisco che in molti casi l'essere donna porta in situazioni di debolezza, soprattutto questa è la mia prima domanda legata al censo, perché secondo me il denaro è una potentissima arma di uscita da queste situazioni. Fuori discussione. Però ripeto, nell'osservazione delle donne io molto. Allora diciamo così, non è sufficiente. Perplessa. Non è sufficiente, il denaro non è sufficiente, è importantissimo ma non è sufficiente. Potrebbe anche essere una causa, potrebbe. Potrebbe anche essere la causa, certo. Però dipende da come vivono, eccetera. Vi do un'ultimissima informazione. In questi anni noi siamo riusciti ad avere quindi diverse case delle donne. Merano, Bolzano, con due associazioni, Igea e Vescezza Bono, gli alloggi protetti, Bressanone, gestito dal comune, e nel senso che anche lì c'è una convenzione, e Brunico, che di nuovo Frauen Helfen Frauen, che gestiscono la struttura. Quindi diciamo che siamo messe relativamente bene e sicuramente molto meglio rispetto a tante altre parti d'Italia. Facciamo un lavoro con le altre case delle donne, perché molte volte rischiano la vita, per cui può essere la donna di Firenze che viene alloggiata da noi con i bambini, o noi che mandiamo un'altra a Merano. Siamo in rete con le case delle donne austriache, cerchiamo di avere sempre più rapporti e reti a livello internazionale, perché è importante anche che ci sia uno scambio di pratiche. È vero che poi ogni paese porta avanti un modello che è frutto del proprio humus culturale, del proprio luogo. Io posso fare una domanda? Ma certo. Mi è capitato proprio anche sul lavoro di pormi delle domande in relazione anche alle culture, insomma, le persone con cui noi adesso ci rapportiamo, recentemente gli immigrati. E questa biblioteca da sempre è aperta a stagisti di ogni genere, tipo ogni progetto. Noi riteniamo di avere un gruppo, anche se piccolo, pronto e aperto ad accogliere temporaneamente delle persone, e quindi abbiamo avuto anche delle esperienze con ragazze pakistane, e ci siamo però sempre domandati: ora queste ragazze vengono a lavorare qui da noi, si immergono in una situazione, in un gruppo eterogeneo dove c'è una facilità anche nel rapportarsi, ci diamo tutti del tuo, andiamo fuori, andiamo a berci un caffè, aspetta, ti accompagno, andiamo in magazzino, magari va un collega con una collega in magazzino a prendere dei libri, eccetera, eccetera. E in entrambi i casi la persona, queste ragazze si sono subito adattate molto volentieri, però col timore che a casa venissero a scoprirlo. Certo. Ecco. Questo mi ha spaventato, ma soprattutto mi sono poi domandata se questo non fosse una fonte per loro di grande dispiacere, di grande turbamento, l'entrare in contatto con una realtà così facile, tutto sommato, e forse anche allettante, perché mi immagino magari un certo tipo di educazione, poi essere libere per 8 ore, di fare niente, però insomma in realtà di avere delle relazioni diverse, e poi ritornare a casa, chiudere questa esperienza e sposare a distanza di un mese un cugino fatto venire appositamente, magari di 20 anni più vecchio, e fine dell'esperienza. Tra l'altro questo poi mi sembra anche vanificare un po' in un certo senso gli sforzi fatti per queste persone, tutte e due le volte sono dimostrate professionalmente in grado, cioè, potenziali bibliotecari oppure qualche impiegate interessate anche al lavoro che veniva svolto, ma tutto sommato poi questa esperienza finisce lì. Allora, ecco, io lì sarei veramente molto interessata ad intervenire sugli uomini, Cioè, lì è proprio un fattore culturale, bisognerebbe prendere i padri e far capire, soprattutto... Non puoi essere tu. No, no, non io. No, non, io. Non puoi essere tu occidentale, però ad esempio la consulta degli immigrati, cioè una loro rappresentanza. Però questo è un problema che abbiamo percepito. Loro devono essere loro a muoversi, perché se no si ritorna a commettere l'errore enorme fatto dagli americani del concetto di libertà che vale solo il loro. Certo. O il concetto di democrazia che però è solo c'è quello. Un tentativo anche di coinvolgere queste consulte, di farlo. Non so, cosa mi domani. Ma sì, perché ci sono ad esempio le donne Nissa che lavorano con noi, sono state coinvolte anche in una serie di progetti. Non so, per sposato, Eugea, donne Nissa. Questo c'è, però ripeto, noi occidentali tendiamo ad essere a volte presuntuosi, ad essere convinti di capire di più degli altri e che sappiamo qual è la strada giusta e via discorrendo. No, nessuno ha voglia di sentirsi inferiore rispetto a un altro. Per cui sarà semmai la ragazza pakistana che ti chiederà aiuto o che vorrà avere delle informazioni, oppure puoi essere tu che magari intuisci delle cose, ma può essere anche la tua vicina di casa che viene menata e lo nega e magari butti lì dei piangea dicendo ma guarda che esiste qualcosa. Una cosa che io, questo sì, vi suggerirei di adottare come atteggiamento, non far finta di niente. Se sentite urlare e non avete il coraggio di chiamare la polizia, cosa che comunque io farei, telefonate subito al vicino, perché a volte basta la distrazione di uno squillo per permettere a questa persona di rientrare in sé. Non dovete essere complice conniventi della violenza, questo no, questo voi lo dovete denunciare, dovete far capire al vicino che sapete o che intuite, questo sì, perché se no non fai altro che dare sempre più alimento a questo modo di procedere detestabile e inaccettabile. Bisogna farsi gli affari degli altri, altro che... No, perché invece molte volte mi hanno... perché le persone hanno paura, sostanzialmente tutti hanno paura. E allora anche prendere in mano il telefono, che poi viene la polizia e che poi dice ma mi ha chiamato lei, sì, ma perché e come? E comunque anche tu vieni segnalata in qualche modo dalla polizia, insomma la gente si scoccia. Questo è. Però così non fai altro che rafforzare un comportamento negativo. Sì, sicuramente comunque è proprio un discorso anche culturale che ci riguarda anche noi nel nostro territorio, anche nella cultura italiana, perché io mi sono sempre stupita come certe signore di una certa età, io pensavo che probabilmente c'è una salvezza biologica, no? Le donne superano in età gli uomini come sopravvivenza e alcune rimaste vedove rifioriscono. Non si è mai capito perché. Non è che abbiano poi anche adesso sai, le signore. Io sinceramente non so se la nostra generazione vibrata a lungo rispetto a quella maschile. Mia nonna che ho detto di mia madre, insomma, ha avuto una vita normale, ecco, non lavorava, quindi si è dedicata ai figli, per carità, forse c'era questo rapporto tra il marito che lavora e lei invece che sta a casa, però insomma erano due persone equilibrate. Pure comunque lei, quando è rimasta vedova, si è disperata, si è dispiaciuta, così. Ma insomma, ha fatto i suoi viaggi. Quindi le viene detto, ma che la biologia ogni tanto, questo scarto di 10 anni che hai, questo vantaggio. Dopo tutta la vita, ha tirato solo 10 figli. Insomma, si è sempre dedicata a tutti. Questi sono cresciuti, sono andati via di casa, nel frattempo rimane sola. Pensavano adesso questa è depressione, chissà cosa succede, nel frattempo ha cominciato a diventare nonna, lei si organizzava, andava in giro e poi quando non aveva da trovare nessuno andava a farsi il suo viaggio. Vabbè, ma il suo viaggio fino a 35 anni è tolto il disturbo senza. Inebriante a tutte le età, no? Sì. È scoperta. Allora ogni tanto penso, ma chissà, forse se anche uno sente donne, il profumo della libertà non lo perde più. Sì, un riappropriarsi anche un po'. una dimensione che per la prima volta nella vita le passate generazioni arrivate appunto alla vedovanza, per la prima volta sono lì. Sì. Esatto. Che troppo piene con la coscienza poi di avere compiuto il loro ruolo. Sì, sì, sì. Prima volta tutto. Ma questo è il motivo per cui le mamme, adesso io come vedo sono in età, ma la mia mamma ha fatto una vita normale, era un artista, non c'era in famiglia, non c'erano tensioni, c'era un discreto benessere, non c'erano. Però la sua idea dominante era che io dovevo diventare indipendente. Sì, sì. Era il suo sogno, la sua assoluta convinzione. Certamente. Ah, la predica è caduta su un terreno fertilissimo, ma mi ricordo ancora, povera donna, ancora sul letto di morte, la sua ossessione che io dovevo diventare insegnante. Perché per lei era il... era il... evidentemente era il riscatto da una situazione che lei viveva come di dipendenza da che cosa? Dal fatto che la ciotola comunque la portava in casa, come dice Snuti, la ciotola te la dà il padrone, che è quello che portava i soldi in casa. E questo è una delle componenti della sbagliata cultura italiana, perché c'è sempre visto la ciotola portata da fuori che vale più del contesto in cui viene inserita, invece non è vero niente, perché anche una che tiene in ordine, che cresce il coro, eccetera, ha più che diritto, anzi la ciotola è ben poco rispetto a quello che fa. Però vallo a spiegare. Chi sta in casa non fa niente. E chi invece lo metto che esce a far niente da qualche parte fa molto. Insomma, questa è, dico, purtroppo, ahimè, e io ho osservato così, spero di aver visto male, però ho capito così. Anche il domestico non è qualificato per nulla. Anzi, ma lavori? No, non lavoro. C'era l'orribile parola la serva. Parola orrenda che però, ma proprio deteriora al massimo, che però, essendo parola creata per esprimere un concetto, esprimeva per l'appunto questo. Ma perché cosa vuol dire la serva? Erano esseri preziosi che alleviavano tanti altri da lavori poco gratificanti. E basta leggere tutto il romanzo ottocentesco e non è tutto basato. Sì. Non è mica, sì. Non sono mica secoli fa, Per quello, ritornando anche al discorso di violenza domestica, anni 80, quindi è una storia molto giovane. E ci vuole tempo. Spero che la nostra generazione sia ricettiva, perché in realtà certi segnali sono anche spaventosi da un certo punto di vista. Vedo il rapporto col fisico di cui parlavi prima, no? Se nell'Ottocento ci si costringeva in busti, no? Che rovinava, ci si ammalava, queste cose, oggi ci si sottopone a delle chirurgie, per cui siamo tutti omologati, perché alla fine hanno tutti la stessa faccia, in televisione mi sembra che hanno tutti la stessa faccia, tutte le stesse misure. Allora, la domanda che ci si pone, questa cosa la stanno facendo per se stesse, per piacere di nuovo, c'è anche qui di nuovo questo rapporto di compiacere qualcuno, di vedersi. Ma perché tu hai il master che non puoi invecchiare? Anche. Cioè, il problema anche è che o sei così o sei demente in una casa di riposo, non c'è mica la via di mezzo. Cioè, che modelli culturali hai? Ma chi è che riesce a dirti invecchiare bello? Non lo so, ditemi, c'è qualcuno che dice che è bello invecchiare? No, che bello, che meraviglia! Che bello che è perdere la memoria, avere l'artrosi, non vederci, sentire poco, una meraviglia! Che bello essere intelligenti! Conta questo sarebbe nell'età in cui uno ancora appunto non arriva all'Alzheimer, valutare di più l'intelligenza, invece la donna intelligente o avvertita come tale dà fastidio, ok? In linea di massima dà fastidio, va bene? È meglio se tace, perché hanno fatto piacere anche la vita dei miei venuti al cinema, appunto. Comunque, anche la vita dei miei 100 anni, infatti. Ahimè, sono le verità, c'è poco da dire. Come preso in giro. Sì, me, insomma, però verità, forse oggi a Bolzano non vale più oggi, ma 20 anni fa a Bolzano una seppure laureata che si presentasse da sola o si fosse presentata da sola valeva meno che se si fosse presentata col camionista in canottiere mutande. Ne sono assolutamente certa di ciò. Ma ad esempio adesso rispetto alla violenza domestica, violenza economica, un aspetto interessante, e anche lì è un fattore culturale, di solito se la moglie andava in banca, voleva magari aprire un suo conto, automaticamente l'impiegato andava a verificare se aveva la firma nel conto del marito oppure no. C'era una procedura molto più rigida, invece non accadeva l'opposto. Era ovvio che il marito avesse la firma sul conto. Ma ripeto, sono automatismi che devono essere svelati e resi consapevoli. Certo, combattuti, è evidente. Sì, più che combattuti, proprio bisogna dare visibilità e quindi rendersi conto che senza essere consci di certi comportamenti, noi perpetuando certi comportamenti non facciamo altro che rafforzare determinati stereotipi. E ci sarebbe da discutere tantissimo, ma adesso è tardi, perché un insegnamento che io faccio all'università è scuola differenze di genere, e io ho delle studentesse che si laureano con me. È molto interessante quindi vedere, riuscire a svelare, a mettere sotto la lente di ingrandimento tutti questi meccanismi comportamentali che sono frutto di una determinata cultura. E i disastri che vengono fatti senza peraltro rendersene conto. E quindi, ritornando al discorso della parola, e qui chiudo l'intervento sulla violenza, se tu non la nomini, non la riconosci. Quindi devi imparare a dare il nome. E anche a mettere per iscritto, perché anche la forma scritta la obbliga a una chiarezza espositiva che nella confusione dei pensieri va perduta. Certo. Se lei queste persone le invita a mettere nero su bianco, anche sgrammaticato non importa, ma focalizzeranno il pensiero in maniera molto più chiara, lo dovranno articolare, quello il tumulto emotivo viene poi, emerge in forma scritta, e ciò anche calma, secondo me, i pensieri e aiuta a vedere più chiaro. Certo, sono sicura. Il tema è affascinante. Sì, io sono